sensibilizzare un tema importante e complesso come quello della denatalità. C'è qualcosa che ti ha influenzata o ispirata in particolare? Sì, tutto è partito quando ho scritto il corto, era un paio di anni fa, anzi forse di più, 4 anni fa. C'era questa campagna del ministro allora Lorenzin, che era una campagna sociale che invitava le donne a fare figli sostanzialmente. E la propaganda di questo tipo era un po' agghiacciante, ci furono tante critiche, ma d'altra parte si sentiva anche la necessità, cioè è comprensibile che un governo faccia ciò. Allora mi sono chiesta cosa sarebbe accaduto se questa cosa fosse portata ai massimi, diciamo, alle massime conseguenze. Inoltre non è la prima volta che ti approcci a un tema delicato come quello della violenza sulle donne, hai anche vinto il premio della Cineteca nel 2009 per il miglior cortometraggio. Come mai ti sta tanto a cuore questo argomento? Beh, dunque, devo dire che adesso sembra un po' scontato, no? Tutti, è un argomento che è un po' sulla bocca di tutti, la violenza di genere, le differenze di genere, le discriminazioni, per fortuna è diventato un argomento all'ordine del giorno. Io da tempo, diciamo, non voglio dire che sono pioniera, ma per nulla, però mi interesso di queste tematiche, soprattutto per quanto riguarda le differenze lavorative in campo cinematografico. Fino alla fine del 2000 era difficile trovare, dell'anno 2000 intendo dire, era difficile trovare film che parlassero di donne e non solo di storie d'amore o di qualcosa che avesse a che fare con la famiglia, eccetera. Quindi ogni occasione per parlare di queste differenze, che nella violenza di genere sono enormi, perché chiaramente la sproporzione fra violenza fisica fatta dagli uomini verso le donne o le donne verso gli uomini è immensa. La psicologica magari è un altro argomento, però comunque è un argomento sicuramente molto molto molto interessante, di cui tutti dovrebbero parlare di più. Ultima domanda: in questo cortometraggio il fagotto mette in evidenza le pressioni psicologiche che avvolgono le donne sul tema della maternità. Quanto pensi che pesino nell'Italia del mondo contemporaneo queste pressioni? Purtroppo pesano e peseranno anche di più, perché la denatalità è un problema oggettivo che riguarda tutti quanti, nel senso che l'ingrigimento della popolazione porta a degli ovvi problemi di welfare che soprattutto non si risolveranno se non si aprono le frontiere a un'immigrazione più ampia, e quindi è un problema che ogni giorno ci si ripropone sotto tanti punti di vista diversi. Il discorso psicologico invece è diverso, nel senso che parlare di quando fare figli, se fare figli, ha a che fare con una cosa che invece è prettamente femminile, cioè col trascorrere del tempo e l'invecchiamento e tutto quello che viene definito normalmente orologio biologico. Mi interessava il fatto che da un certo punto di vista la società e la psicologia delle donne si uniscono in un problema comune. Diciamo che guardando il corto si capisce meglio di come l'ho spiegato.